Pupazzetti, ragazzi presi a casa in TV a cantare motivetti. Rap, come siamo messi? Cazzo, siamo fessi. 10 anni che mi sbatte per strada e me neanche resti. Basta, la storia è già troppo lunga e mi stanca. I raga dalla strada vi buttano giù dalla panca. Molla l'osso oppure scatta la boffo. Mi butta a capo finti sto gioco, gioco col lessico. Plastico, mastico, stile iconoclastico. Vivo la mia vita in piena corsie di sorpasso. Io punto in alto, miro al centro ma non vendo me stesso. Voglio successo adesso, senza compromesso. Scendo giù in picata, miro al centro, seguo il mio binario. Colpo dopo colpo vado a segno, non mi sbaglio. Giù in picata, niente freni, senza compromessi annessi. Nella mischia come cani e gatti stiamo matti. Giù in picata, miro al centro, seguo il mio binario. Colpo dopo colpo vado a segno, non mi sbaglio. Giù in picata, niente freni, senza compromesse annessi. Nella mente come cani e gatti stanno mai. Chiuso in questa stanza cerco di trovare da me stesso la soluzione per lenire la pressione. Mi comprime dal di dentro, ininterrottamente agisce. Mi colpisce, mi ferisce il mio cervello ed il mio cuore esplode. Le pareti bianche grondano di sangue. Si contraggono i miei nervi, i muscoli si tendono. Disperatamente tento a ribellarmi ancora. È uno stato d'animo oltre la normale, non si può capire. Non ne puoi uscire, la mia rabbia cresce d'ora in ora, d'anno in anno. Guarda attorno, è solo spazzatura musica. Musicale, rapper, come rotto in culo, come arrivistivi, come puttane. Dove vi muovete, questo è il nostro territorio, parassiti. Disci di strisciarti come vermi da schiacciare. Sumettetevi a novate, preparatevi ad urlare. Scendo giù in picchiata, miro al centro, seguo il mio binario. Colpo dopo colpo vado a segno, non mi sbaglio. Giù in picchiata, niente freni, senza compromesse annessi. Nella rischia come cani e gatti stanno. Andiamo giù in picchiata, senza paracadute. Sempre più giù, tenendo su le nostre vedute. Consci dal fatto che tu li uccidi tutte. Per questo porto solo show per le orecchie acute. Sia da giù che da su si intercetta un cambio rapido di falsi show in diretta. Aspetta, presenta. Il vero resta sottoterra mentre in superficie il falso gioca con la moneta. E quindi otto per il doppio dello sforzo, regolando l'andatura verso il valore noto. Un volto, una persona, nulla di creato sotto test. Trovi sempre meno, non trovi un altro volto. Eppure il resto del parere che quando manovri un micro parla la coscienza. Non parlo un contratto scritto, insisto e metto il visto sulla parola stop. Questa roba non si tocca se le mani sporche. Che bro, oh. Stimolo perché a memoria corta. Risuscito le anime di chi ha acceso sta torcia. Tenendo sempre stretto al petto il suono che si forgia. Urtando contro te come il vento su una roccia. E resto indipendente indipendentemente dal fatto che faccio pop. Non faccio mica pop. 4 elementi puri falsi dentro solo cap. Head spin outline grime ma prima umilda. Prima umiltà. Scendo giù in picchiata, miro al centro, seguo il mio binario. Colpo dopo colpo vado a segno, non mi sbaglio. Giù in picchiata, niente freni, senza compromessi annessi. Nella mischia come cani e gatti stiamo matti. Scendo giù in picchiata, miro al centro, seguo il mio binario. Colpo dopo colpo vado a segno, non mi sbaglio. Giù in picchiata, niente freni, senza compromessi annessi. Nella mischia come cani e gatti stiamo matti. Scendo giù in picchiata, miro al centro, seguo il mio binario. Colpo dopo colpo vado a segno, non mi sbaglio. Giù in picchiata, niente freni, senza compromessi annessi. Nella mischia come cani e gatti stiamo matti.